State ascoltando Radio Oltre Po. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Bene, bene, eccoci qua, ci siamo rigorosamente in diretta su Radio Oltre Po. Nuova sigla e nuova versione di questa trasmissione che avete l'occasione di ascoltare. Scusate, non mi ero aperto il microfono, vi dicevo, avete la possibilità di ascoltarla spesso in programmazione, ma anche in diretta con il vostro amico Andrea oppure Mangia. Un programma principalmente che vi darà l'opportunità di ascoltare canzoni che difficilmente ascoltate nelle radio italiane, diciamo così. Sono brani protetti da varie licenze Creative Commons, quindi niente a che fare con la SIAE. Musica stupenda che ho scovato in vari siti e che 24 ore su 24 vi programmiamo proprio su Radio Oltre Po. Vi ricordo in apertura tutti i nostri vari contatti se volete farci sentire la vostra presenza. Il sito della radio www.radiooltrepo.com, dove trovate tutte le coordinate per interagire con noi, oppure il mio sito personale www.andreamangiarotti.com per dialogare, per esprimere pareri, commenti, considerazioni sulla trasmissione, ma anche sulla radio, sempre se vi va, ovviamente. La sigla vi piace? Fatecelo sapere magari anche tramite mail. Il nostro indirizzo è radiooltrepo@live.it. Inoltre siamo presenti anche su Twitter, basta cercare Radio Oltre Po per aggiungerci e per essere informati sulle nostre news, su quello che accade intorno alla radio a 360 gradi. Inoltre abbiamo anche un account su Facebook. Siete sempre tanti e numerosi, di questo ve ne ringrazio, potete aggiungerci anche lì. Il sito l'ho ricordato prima, non ricordo ancora, www.radiooltrepo.com, dove trovate tutte le coordinate per entrare in diretta in compagnia di Andrea, diretta virtuale. Poi inoltre dal sito potete ascoltarci, basta cliccare sul vostro player preferito oppure ascoltarci direttamente lì online 24 ore su 24 con la nostra musica, le nostre trasmissioni, non solo. Una bella sigla che è nuovissima, molto molto sky, vero? Spero vi piaccia. È per farvi magari un pochino divertire e alzare il volume del vostro computer. Se ci ascoltate, se invece ci ascoltate da qualche altra parte, tipo iPhone o cellulare, a tutti voi buon ascolto e buon divertimento. In apertura direi di mettere una canzone del caro amico Graziano Manca, H Dark Light, mio carissimo amico, produttore e cantante, che spesso sforna questi singoli bellissimi. Li trovate su Yamendo, due suoi album, basta cercare su yamendo.com Dark Light e potrete ascoltare due sue belle opere. Dall'ultimo album Ombre sulle stelle abbiamo estratto questa traccia che, se non erro, è la traccia di conclusione del suo CD Obscure Renaissance Dark Light. Iniziamo alla grande quest'oggi. sei su Radio Oltrepò. Musica elettronica per tutte le orecchie. This is Dark Light. Clyde con Obscure Resonance. Resonanze oscure, estratto dal suo ultimo CD Ombre sulle stelle, che trovate legalmente e liberamente scaricabile sul sito www.yamendo.com. Basta cercare Dark Light, Ombre sulle stelle, trovate insomma la sua discografia, l'album precedente e questo nuovo lavoro molto molto accattivante. Sempre a proposito di sperimentazioni musicali, di musica elettronica e non solo, il prossimo brano è di un artista scandinavo che è famosissimo su yamendo.com, si chiama Kamerer e ci propone quest'oggi il brano Expander per 4 minuti e 54, la sperimentazione elettronica del grande Kamerer. Buon ascolto. Questa è Radio Oltre Po. A Broni e Stradella la puoi ascoltare in FM sulla frequenza www.radiooltrepo.com, megahertz in stereofonia. Radio Oltre Po. Enjoy the sound. Away. Era Eridani, un ennesimo brano di musica molto molto dance, diciamo così, che avete ascoltato suonando Oltre Po. In precedenza invece Kammerer con Expander. Ora direi di aprire un piccolo angolo, purtroppo un piccolo guasto tecnico quest'oggi non mi consente di consultare il web e non vi posso magari leggere qualche notizia curiosa. Me ne scuso, ma sono cose che capitano. Si riesce a malapena a trasmettere in streaming e non riesco a leggere nessuna notizia. Comunque possiamo parlare di una band italiana, visto che fino ad ora abbiamo ascoltato brani internazionali. Parliamo dei Rain, una basettina molto molto happy, diciamo così. Si presta bene per questa band italiana che si cimenta anche nello ska. Circa qualche mese fa, per l'esattezza ad ottobre, è uscito questo album nuovo dei Rain. benché insomma la loro fama e notorietà in giro per l'Italia, un gruppo che fa un sacco di concerti, hanno deciso insomma di tutelare le loro opere non tramite i canali convenzionali tipo SIAE, BMG eccetera eccetera, ma bensì hanno scelto insomma di sposare la causa della musica Creative Commons, perché credono fermamente insomma nella libera circolazione e dell'utilizzo del supporto musicale, insomma un po' anche come sottoscritto e come la nostra radio, che anch'essa ha sposato la causa del Creative Commons, della musica insomma libera. Ecco, vi dicevo di questo album molto bello, ho dato diciamo così un veloce ascolto alle tracce su yamendo.com e lo reputo interessantissimo. Vi vorrei proprio far ascoltare la traccia di apertura del CD, che è intitolata È finita, cantare i grandissimi Rain. Questa è Radio Oltrepò. E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato, e mi dicevo che certo non era così che doveva finire. Abbiamo gli occhi sul finestrino, dove le case non sono le stesse, chiuse dietro a mura da cui non puoi più scappare. E mi chiedevi dove si nasconde l'infame che le ha costruite. E le piazze sono vuote, non gli servono cadere, loro pensano al nostro bene, loro pensano per noi. Le domande sono nere, che si scioglie il giorno dopo, nella vita quotidiana, siamo ovunque in nessun luogo. Saranno sbarre a farmi da galera, o a spaccarmi la minza alla notte, tra attentati e tritolo esplosi quasi per noia. Ma dentro le loro stanze conviene obbedire, non fare domande. Avrò nascosto per bene le prove, per discolparmi in tribunale. Ho già interrato la mia pistola caricata a sale. E quando saranno alla porta io gli urlerò di non avere paura. È una pace artificiale, sopra il bene e sopra il male. Lotterie per discolparsi dai lavaggi di coscienza. Sono specchi deformanti per sembrare un po' più snelli, più giovani e più belli, più ricchi e meno soli. Sarà un mirino a tracciare il contesto, a separare il falso dal vero. Saranno ronde di ferro a difendermi dall'uomo vero. E sarà tardi per capire che cosa è che non si poteva comprare. Come il divino in un campo di grano, come i sogni che mi hanno rubato, come le guardie vestite da persone per bene. Come lo specchio che ogni mattina ricorda benissimo da che parte stare. Nella notte illuminata dai fanali del consenso, gli abbonati della calma esplodevano in silenzio, senza mettere sentenze, senza scontri né pistole. Fucilavano gli ostaci in nome dell'amore. Sono tornati alla grande i Rain con questa traccia intitolata È finita, estratta dal loro ultimo album, per l'esattezza era la traccia numero 1. Ora andiamo avanti cambiando ancora una volta genere. Right Here, bellissima canzone di Silent Assassin. sempre recuperato da yamendo.com. Sonorità molto molto intriganti e interessanti. Con voi in magia. Questa è Radio Oltre Po, nell'arco delle 24 ore. Solo grande musica, solo grande energia. Ascoltaci su www.radiooltrepo.com. Radio Oltre Po, solo il meglio della musica minimal. Thank you. Eccoci tornati in diretta con il suono minimal di Radio Oltre Po. Spieghiamo ancora un pochino che cosa state ascoltando. Siamo rigorosamente in diretta con voi, io sono il Mangia. Se volete interagire con il sottoscritto potete andare sul sito www.radiooltrepo.com e inviarci una mail, oppure potete aggiungerci nel nostro profilo di Facebook, guardare quello che accade sul nostro Twitter, oppure magari inviandoci una mail al nostro indirizzo radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it. Bene bene, spero che la vostra giornata, la vostra serata prosegua bene. Ora, dopo questi bel brani di musica dance molto molto, diciamo così, non certo commerciali, anzi tutt'altro, un pochino ricercati, la radio suona qualcosa di differente, un po' di hip hop. State lì con il Mangia. Bravo Bruno Xe, che ci ha regalato questo disco stupendo che trovate anche su www.yamendo.com. Ricordo ancora una volta che potremmo definire Yamendo.com, insomma lo sponsor della nostra trasmissione, perché permette appunto di scaricare legalmente canzoni protette da licenza Creative Commons. Queste licenze sono divise in 6 licenze che consentono per l'appunto l'utilizzo della musica e al tempo stesso la tutela dell'artista che compone i brani. L'artista va su Yamendo.com, carica il proprio CD e lo rende disponibile al mondo del web. Poi lo stesso CD viene anche, diciamo così, condiviso con altre piattaforme tipo Emule, Torrent, eccetera eccetera, e quindi può essere scaricato legalmente, ascoltato, e a seconda della licenza che l'artista ha selezionato potete magari diffonderlo in pubblico, trasmetterlo nella vostra web radio, persino modificare il brano. Questo per dire insomma che nel mondo non esiste solo la CIA che tutela in modo, secondo me, molto molto di parte, perché i grandi artisti sono più che tutelati, ma i giovani artisti magari per far pubblicare un album e poi per proteggerlo dai diritti d'autore, insomma, spendono tantissimi soldi e sicuramente non ottengono i passaggi radiofonici che ottengono i vari blasonati cantanti italiani e internazionali. Detto questo, cambiamo genere di musica. Dall'hip hop torniamo ancora in Italia, perché sempre su Yamendo ho scovato un artista molto bravo, si chiama Mario Salis, che ci propone questo brano dal titolo Farfalla Regina. Questa è Radio Oltre Po in compagnia del Mangia. Farfalla Regina, lui è Mario Salis. Creatura d'aria, splendida sorgente. cosa mai sarebbe la natura senza i raggi del tuo sole? Cosa mai sarebbe il mondo senza la tua voglia di amare? Regina, la notte, la mia bambina, il vento è il tuo vestito, la pioggia una stella cadente, tu sei il mio drink, tequila caliente. Il mio dream, ti voglio per sempre. Stupenda canzone di Mario Salis, Farfalla Regina. Come potete ascoltare su gliamendo.com e anche sulle altre piattaforme che diffondono la musica Creative Commons, è possibile ascoltare dei veri e propri geni, talenti, artisti che sanno regalarci emozioni. Purtroppo magari non hanno, diciamo così, alle spalle una società tipo la CIA e magari non se lo possono neanche permettere, perché si vedono chiuse le porte dei grandi cantautori, però c'è veramente del talento sul web. Questo è un altro brano molto bello, Ambient Flight, però sono gli Zero Page. Yeah. questa è Radio Oltrepò, nell'arco delle 24 ore. Solo grande musica, solo grande energia. Ascoltaci su www.radiooltrepò.com. Come dicevano i mitici giostrai degli anni Ottanta, ragazzi, la corsa è terminata, recatevi alla cassa a fare il gettone. Insomma, negli anni Ottanta dicevano così. Anche noi purtroppo siamo giunti al termine della nostra diretta, comunque non disperate, ci potrete ascoltare ancora. Sempre sulle frequenze di Radio Oltre Po, radiooltrepo.com. Ho preso anche l'intro, insomma, della mia basettina iniziale e anche finale, un po' per farmi perdonare, perché nel brano precedente di Zero Page Ambient Flight purtroppo ho mancato l'intro, perché solitamente Zero Page producono delle canzoni con intri molto molto lunghi, diciamo così. Però vedrete questa canzone precedentemente ascoltata, ve la proporrò ancora perché è stupenda. Ambient Fly. Dicevo, siamo arrivati in fondo per quest'oggi. Prima di congedarvi, il mio saluto, un abbraccio da parte del Mangia. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e in compagnia di Radio Oltrepò. Velocemente vi ricordo tutti i nostri contatti: www.radiooltrepò.com il sito, oppure il nostro account su Facebook, potete richiedere l'amicizia per essere informati sulle ultime news della stazione. Radio Oltrepò anche su Twitter, potete, diciamo così, aggiungerci per avere, insomma, le ultime notizie sulla nostra radio, sui programmi e trasmissioni di Sjokei. C'è ancora qualcosa da dire? Ah no, la mail, se volete scriverci, radiooltrepo@live.it. aperta parentesi, vi ricordo anche il mio sito personale www.andreamangiarotti.com in caso, insomma, volete dialogare con il sottoscritto. Ben accette anche critiche e, insomma, considerazioni negative sul programma, non vi preoccupate, vi risponderò con molto piacere e molto entusiasmo. Il computer mi fa cenno che è arrivato il momento di chiudere, e allora vi dedico l'ultima canzone, che è anche la sigla finale. Potete per un attimo chiudere gli occhi e sognare con questa canzone molto molto retro, diciamo così, sembra di essere negli anni Ottanta. Buon proseguimento a tutti con i programmi di Radio Oltrepò. Un abbraccio da parte del Mangia. Ciao, alla prossima. Del 1990, Radio Oltrepò è con voi. Musica, informazione, intrattenimento. Ascoltaci sulla frequenza www.radiooltrepo.com.